E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Alle volte ritornano. Quante puntate avremmo fatto in questi 10 passa anni sul prezzo della benzina? E tocca rifarla, perché la benzina è a record, è a record anche il gasolio, ma soprattutto non vi sarebbe, tra virgolette, nulla di strano se anche il petrolio fosse a record. Il petrolio è da più di un mese che è stabilmente a tra i 96 e i 100 dollari al barile. Oggi per esempio 98,80, e allora non si capisce perché, lo dico col massimo rispetto ma anche con la massima frustrazione, perché proprio nel momento del gelo e di quant'altro il prezzo della verde oggi è toccato 1,801 euro negli impianti Tamoil, il gasolio arriva a sfiorare 1,74 euro negli impianti Total Erg, cioè ci stiamo avvicinando a 2 euro al litro per quello che riguarda la verde. Ripeto, non abbiamo visto impennate il prezzo del petrolio, non abbiamo visto motivi particolari. Ci sono state nel passato le accise messe anche dal governo Berlusconi, una la ricorderete per il Fondo Unico per lo Spettacolo, un'altra per le calamità, ma insomma gli aumenti sono di questi giorni, non derivano dagli ultimi mesi. Tra l'altro i Codacons, quindi una delle associazioni dei consumatori, ha chiesto alla Guardia di Finanza di andare alle pompe di benzina e verificare se vi siano rialzi dei listini ingiustificati, puramente speculativi. Ne parleremo con chi rappresenta i Codacons, con chi rappresenta i distributori di carburante e con chi rappresenta anche i petrolieri. Tornerà infatti il mitico presidente dell'Unione Petrolifera Italiana Pasquale De Vita. E poi la borsa va bene oggi, Milano è di nuovo la migliore, oggi anche in maniera netta, più 1,15%, più 0,17% invece Parigi, invariata Francoforte, Londra invariata, l'America perde lo 0,30%, l'euro a quota 1,3238, molto bene oggi Enel, più 5,20%, A2A più 6,20%, Prysmian più 5,12%, Ansaldo più 4,70%, Unicredit Intesa più 3%, Finmeccanica più 2,5%, Popolare di Milano più 2,30%, Tenaris più 1,80%, Banco Popolare più 1,40%, perde Ferragamo il 2%, Diasorin l'1,80% come Luxottica, l'1,60% lo perde la Popolare Emilia Romagna e Ubibanca, l'1,20% il calo di Fiat Industrial e l'1% quello di Exor. Ultima cifra 349-238-6666 è quella per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve, e chiaramente ci occuperemo nella seconda ora anche del tavolo sulla riforma del mercato del lavoro. Questa sera di nuovo l'incontro con Confindustria e parti sociali, interventi in audizione del ministro Fornero, ma anche della Grecia. Sembrerebbe addirittura d'arrivo l'accordo con la partecipazione anche della Banca Centrale Europea. È un po' che sembra addirittura d'arrivo, è sempre addirittura d'arrivo questo accordo. Comunque ne parleremo, intanto subito le notizie in breve. Volete sapere se la Consob ha ancora i fari accesi sulla vicenda fondiaria SAI? Allora, la Consob su questa vicenda, a me sembrano assolutamente spenti sti fari, però non voglio essere rispettoso. Le fondiaria SAI di nuovo oggi hanno fatto più 30, meno 20, oggi più 18 in 3 giorni, vabbè, se va bene così. Più 18% fondiaria SAI sulle risparmie, più 11% sulle ordinarie e Unipol più 10%, senza un motivo valido, formale, trasparente. L'oro è stabile a $1,747 l'oncia, record nel consumo del gas anche ieri in Italia, 466 milioni di metri cubi. La media, ricordiamola, in questo periodo di solito è 380 milioni di metri cubi. E il ministro dell'energia dell'Ucraina, Yuri Boyko, ha fatto sapere che a causa del gelo e degli aumentati consumi interni la Russia sta inviando ogni giorno verso Kiev il 10% di gas in meno, cioè invece che 510, 406 milioni di metri cubi. Sarebbe interessante sapere anche per l'ENI, visti i contratti presi con Gazprom, se poi Gazprom non pagherà una penale, perché ci sta rifornendo di meno gas. Ho capito che ha motivi interni, ma quando uno fa un contratto take or pay non è che poi può essere soggetto o suscettibile di quelle che sono le richieste a domanda interna poi russa. E infatti l'ENI ha confermato che le forniture del gas della Russia sono calate del 10%, definendo comunque accettabile, rispetto al meno 30% dei giorni scorsi, il calo registrato oggi. Intanto, secondo fonti del Ministero dell'Industria e della Tecnologia tunisino, la Tunisia cederà momentaneamente all'Italia, a causa dell'emergenza freddo, il gas algerino di cui attualmente fruisce. Decisione presa in seguito a contatti tra Italia e Tunisia. La Tunisia è tra l'altro una delle maggiori destinazioni del gas naturale algerino. Per fortuna il rigassificatore dell'ENI di Panigaglia è tornato al 100% operativo, mentre poco fa il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, è stato ricevuto a Palazzo Chigi alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà e del premier Mario Monti. Scaroni, a quanto si apprende, avrebbe illustrato la situazione degli approvvigionamenti di gas in relazione proprio ai tagli delle forniture e dell'ondata di freddo che sta colpendo l'Italia. Imprese in difficoltà comunque per il maltempo e per le interruzioni delle forniture di gas. Il presidente Confindustria Marche, Paolo Andreani, al microfono della nostra Valeria De Rosa. Le Marche sono, con l'Abruzzo, la regione forse più colpita dal doppio effetto. Sulla mancata produttività, io credo che questa neve, mezzo punto del PIL, ce l'abbia tolto. I danni sono senz'altro rilevanti, perché abbiamo avuto qualche giorno di fermo, sia dovuto al problema che hanno vietato il transito degli autocarri superiori a 7,5 tonnellate, con una conseguenza che gli approvvigionamenti per le aziende non sono arrivati. Ci si è aggiunta la problematica che nell'entroterra, dove molte nostre aziende gravitano, molti dipendenti sommersi da oltre 2 metri di neve non hanno potuto presentarsi al posto di lavoro. Terzo punto, il problema dell'energia, che non arriva costante. Chiedo scusa, è un po' troncato quest'ultimo pezzo, e sentiamo anche il presidente, il direttore generale di Confindustria Abruzzo, Giuseppe D'Amico, questa volta intervistato dalla nostra Adriana Fracchia, sempre sulle prime stime dei danni al settore produttivo in Abruzzo. Noi stiamo facendo un monitoraggio in questi giorni per capire qual è la situazione sulle industrie abruzzesi, per cui dare dei dati precisi per adesso cioè, sinceramente impossibile, perché stiamo chiedendo per l'appunto. Comunque noi quantifichiamo dei danni notevolissimi all'economia e alle imprese, perché ovviamente la situazione quella di emergenza in effetti è constatabile e c'è stata. Le segnalazioni da parte di imprese di fermi di produzione dovute ai più svariati motivi ci sono stati, perché sono state ovviamente impossibilitate di molti lavoratori di raggiungere le fabbriche e quindi sono fermate intere parti di produzione. C'è stato soprattutto problemi di approvvigionamento che hanno bloccato totalmente la produzione di molte imprese, perché i problemi più grossi, diciamo, sono riferibili a quelli. Non ci risultano danni materiali diretti, cioè tipo crolli di capannoni o cose del genere, non ci risultano per quanto riguarda l'industria. Ancora lasciamo l'Italia adesso, perché c'è un record nelle esportazioni tedesche nel 2011. La Germania ieri ha avuto un brutto dato sulla produzione industriale relativo al 2012, però nel 2011 ha fatto più 11,5% rispetto al 2010 quanto a esportazioni. Ha superato per la prima volta il valore dei 1.000 miliardi di euro di beni e servizi esportati, 1.060 miliardi. Un andamento che è molto più simile a quello dell'Italia, anche l'Italia ha avuto un ottimo dato nel 2011 sull'export, ed è nettamente diverso da quello della Francia. La Francia infatti continua ad avere un problema nel Made in France. L'ultimo attivo della bilancia commerciale francese risale al 2002 e l'ultimo nel 2011 la Francia ha chiuso con un passivo della bilancia commerciale da record, 70 miliardi di euro di differenza tra le esportazioni francesi e le importazioni francesi, tant'è che la quota francese di Made in France sul mercato mondiale è scesa dal 5% nel 2003 al 3,3% nel 2001. General Motors starebbe valutando la chiusura delle fabbriche Opel in Germania e in Gran Bretagna, è la notizia del Wall Street Journal Deutschland, e tra l'altro la Mitsubishi ha già chiuso i suoi impianti in Olanda e ha bloccato la produzione in Europa. Purtroppo è una tendenza dei grandi colossi automobilistici a orientarsi più verso Cina e India. Della Grecia parleremo invece più avanti. La Deutsche Bank dice che la Grecia ha 3 giorni per evitare il fallimento. Il Financial Times elogia Draghi per come ha scongiurato il disastro del credit crunch, del blocco del credito, con abilità e senza far troppo rumore. Le Monde incorona anche lui, Mario Draghi, 100 giorni vincenti alla guida della Eurotower, della Banca Centrale Europea, e ci fa piacere perché è un italiano, in questo periodo non è che gli italiani godono di ottima stampa fuori. Intanto il nostro spread scende anche sotto quota 350 punti, poi è risalito, ma è arrivato a 349, poi ha fatto 360, adesso è 357. Comunque un livello non ancora sufficiente, ma sicuramente più tranquillizzante rispetto ai 520-530 punti. Oggi inizia il viaggio di Mario Monti negli Stati Uniti, domani l'incontro col presidente Barack Obama. Di questo parleremo nel corso dell'approfondimento nella seconda ora sul mercato del lavoro. Vorrei adesso però raccontarvi 2 o 3 cose sulla crisi e poi parlare subito di benzina. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, è polemica in Gran Bretagna, anzi fra Gran Bretagna e Cina, per le bambole mascotte delle Olimpiadi di Londra 2012, le Olimpiadi di quest'anno. Il quotidiano britannico Sun, che è un po' scandalistico, un po' tanto, però ha denunciato che gli operai cinesi che producono i gadget sono sfruttati e sottopagati. Turni massacranti di lavoro, 358 ore al mese, oltre 11 ore al giorno, per uno stipendio mensile che va dai 108 ai 205 euro. Il presidente della Yang Cheng Rainbow Arts ha risposto che le accuse sono false e che sarebbero riferite da un ex dipendente. Ma insomma, su questo in Gran Bretagna c'è polemica, e mentre in Italia vi sto per leggere una cosa che non so se fa cascare solo le braccia, forse fa cascare proprio tutto. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Allora, io non so dove voglia arrivare la politica, ma insomma la nazionale di calcio dei nostri parlamentari, invitata per un torneo di beneficenza a Catania, si è concessa, perché immagino migliaia di persone che prendevano i cancelli per vedere i parlamentari giocare a calcio, ma solo se la trasferta fosse stata completamente spesata. Allora, siccome gli organizzatori hanno fatto notare che era una partita di beneficenza, gli onorevoli hanno accettato di pagarsi solo il biglietto aereo, per cui sono già rimborsati. Tutto il resto è stato rigorosamente gratis, come da richieste, per cui alcuni sponsor hanno dovuto coprire i costi del ristorante, 15 parlamentari, chiaramente il conto non hanno pagato. E poi un collega catanese, siccome non pagavano il conto, aspettando che arrivasse il sindaco, il collega catanese Giuseppe Berretta del PD ha pagato per tutti. Il meglio però è arrivato dopo, perché era una partita, un triangolare con la squadra dei politici locali e dei magistrati. A fine torneo Un funzionario della Polizia Municipale ha fatto il giro degli spogliatoi per chiedere ai nostri parlamentari un contributo finalizzato all'acquisto di 3 carrozzine per i bambini disabili assistiti dalle sorelle della carità. 3 carrozzine, costo 700 euro l'una. Non hanno cacciato un solo euro, nel senso che alla fine, per evitare una figura di cioccolato, è dovuto intervenire di nuovo il solito Giuseppe Berretta del PD, che ha cercato di rimediare tirando fuori 100 euro. I tre bambini destinatari di queste 3 carrozzine, i 3 disabili, ringraziano, ne servivano 2.100, 700 euro l'una, ma i parlamentari, alle prese con la crisi, col taglio o con la riduzione degli aumenti, chiaramente non hanno cacciato un euro. E qualcuno si è pure trattenuto a Catania un giorno in più a spese degli organizzatori per godersi il sole e i 16 gradi. La giustificazione degli onorevoli è: non è possibile sostenere ogni trasferta a nostre spese. Pensate che chi guidava la compagine parlamentare era l'onorevole Maurizio Paniz del PDL, che guadagna 1.800.000 euro l'anno e forse più pagato tra gli avvocati presenti in Parlamento. E poi c'erano deputati di tutti gli ex schieramenti: il finiano Luigi Muro, il leghista Franco Gidoni, Michele Cappella, e poi anche Gioacchino Alfano del PDL. Nel suo sito campeggia tra l'altro il motto: quando gli ideali scendono in campo, ecco, lasciassero anche 2 lire quando scendono in campo, perché avete fatto una figura, mamma mia. Parliamo di chi non lascia i soldi, di chi adesso invece li lascia tutti i giorni quando va a fare il pieno. Parliamo di benzina. Ci risiamo, lo so, alcuni dicono dibattito noioso, non avete altro di cui parlare. No, non abbiamo altro di cui parlare perché il gasolio è oltre 1,74, la verde è a 1,801 euro, e c'è chi, come il Codacons, minaccia, denuncia. Allora saluto nell'ordine il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, buonasera Rienzi, il presidente della FAIB, che è la Federazione Italiana Benzinai, quindi oltre 10.000 associati, la più rappresentativa, Martino Landi, buonasera anche a lei. Buonasera. E buonasera anche al presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita. Buonasera, presidente. Buonasera a lei. Oh, posso rimandare in onda la stessa puntata della volta scorsa, o magari troviamo una spiegazione stavolta? Comunque. Dipende dalle domande. Vabbè, allora sarà sempre quella. Allora mandiamo il replay. Niente da fare. Non è. Per favore. Allora, Rienzi, perché volete mandare la Guardia di Finanza dai distributori? Intanto vorrei fare una domanda al Presidente della Petrolifera: perché richiesto per iscritto di fare un confronto tra i suoi tecnici e i nostri sul perché quando cala il barile non cala la benzina alla pompa e viceversa, invece sale appena sale velocemente, hanno rifiutato. Quindi questo lo devono sapere i vostri ascoltatori. Loro fanno sempre chiacchiere dicendo: ma noi siamo a posto, abbiamo tutte le giustificazioni, bla bla. Quando vogliamo mettere di fronte i tecnici nostri e loro, non lo fanno. O se lo vogliono fare, lo dica subito in radio davanti a tutti. Vediamo se è vero quello che dico. Per il resto la Guardia di Finanza deve andare, perché siamo stupidi delle speculazioni. Abbiamo uno Stato che, siccome guadagna sull'aumento della benzina, anche speculativo, perché prende il 60% di tutto quello che si specula, non fa niente. Ecco, niente. Pensavamo che questo governo fosse diverso da quello precedente. Invece è uguale a quello di prima. Allora, c'è una parte che riguarda lo Stato, le accise, le messe del governo Berlusconi per il Fondo Unico sullo Spettacolo, l'ultimo che ricordo, e per le emergenze alluvioni. Il 60% del prezzo della benzina si chiama IVA, che purtroppo ha un effetto chiaramente ciclico, cioè essendo l'IVA applicata sul sottostante aumenta ancora di più il prezzo finale, non ha un effetto anticiclico. Invece le accise sono fisse, ma restano lì, e si propose già allora, 5 anni fa, utilizziamo una leva anticiclica, cioè lo Stato rinuncia a un po' di accise e un po' di IVA, magari, scusatemi, nel momento in cui il prezzo della benzina, del petrolio, sale molto, perché tanto il gettito finale sarebbe uguale. Però c'è anche la componente della filiera. Allora, partiamo con i benzinai. Io poi, se volete, vi leggo anche com'è andato il prezzo della benzina, lo leggo subito, com'è andato il prezzo del petrolio. Oggi siamo a 1,80 euro, come prezzo la benzina. Il Brent fa $116, ossia 87 euro con il cambio di oggi a 1,32. Nell'agosto 2008 la benzina era 1,56 euro, il prezzo del Brent era $147, ossia 93 euro, praticamente 7 euro più di adesso. Il cambio allora era 1,58, la benzina costava quasi 30 centesimi in meno. Landi, state speculando sul freddo e difficoltà anche nei trasporti? Ma io direi di no. Gli aumenti che venivano denunciati dal rappresentante dei consumatori sono aumenti dettati da una volontà dell'Unione Petrolifera, dalle compagnie petrolifere che valutando le quotazioni del Platz, come lo affermano, scattano le condizioni per gli aumenti dei prezzi al consumo. Noi gestori applichiamo esattamente il listino che le compagnie petrolifere ci comunicano e ci consigliano tutte le mattine. Chiaramente io sono perfettamente d'accordo con i consumatori qualora si dovessero riscontrare delle situazioni di approfitto da parte dei gestori, è bene che l'autorità di controllo su questo faccia il suo dovere. Noi però respingiamo queste accuse perché oggi i gestori applicano esattamente i listini che le compagnie petrolifere consigliano. Ma quindi gli aumenti che le ha fatti le compagnie petrolifere, Landi? Guardi, le compagnie petrolifere... Pronto? La stiamo perdendo nel momento più interessante. Landi, mi sente? Ecco, io sì, sì. Dico, Landi, gli aumenti chi li hanno fatti? Le compagnie petrolifere? Gli aumenti che si sono verificati e si stanno registrando in queste ultime settimane sono aumenti dettati dalla volontà e dai listini delle compagnie petrolifere. Non certo il gestore la mattina si diverte a aumentare il prezzo. In una situazione come questa, di una crisi dei consumi che morde tutti, i gestori in questo contesto si trovano a vendere un prodotto che ha un costo così esagerato che non trova risposta nei consumatori e nella vendita, il gestore è penalizzato quanto i consumatori, quindi assolutamente respingo il fatto che la volontà di aumentare il prezzo sia dettata dai gestori. Ecco, tra l'altro voi avete appena detto che sarà sciopero dei benzinai se nel decreto liberalizzazioni, il decreto diciamo Cresci Italia, non verrà reintrodotta cioè non verrà eliminata l'esclusiva, e voi in questo momento, tranne che per 500 su 24.000 distributori, avete l'esclusiva con un gestore, con una compagnia petrolifera. Sì. Voi volete la possibilità di poter scegliere tra le varie compagnie. La norma c'era, poi è scomparsa, adesso voi la volete così tanto che siete pronti allo sciopero? Ma guardi, noi stiamo in questo momento seguendo l'iter parlamentare di questa dell'evoluzione che avrà questa legge in Parlamento. Noi abbiamo espresso un giudizio critico sulla volontà di liberalizzare nuovamente questo settore proprio perché questo governo non ha avuto il coraggio di intervenire in modo più radicale. Siamo vigili su questo, sì. Non mi sento oggi di dire, di proclamare, cioè noi avevamo annunciato uno stato di agitazione e un'eventuale proclamazione anche di scioperi. Al momento non sono in grado e non mi sento di dire che confermo questa possibilità. Stiamo vigilando sul viter parlamentare e valutiamo giorno per giorno. Certo è che la categoria dei gestori con questo intervento è sicuramente più penalizzata e quella che poi alla fine ci rimette di più. Perché allora ci sono delle cose strane che ci segnalano agli ascoltatori, per esempio ad Arcore lunedì mattina 1,701 euro, la sera 1,709 euro, il mercoledì 1,714 euro, cioè sono aumenti molto molto... Al di là delle accise, che avete ragione, ha messo anche il governo Monti, se non ricordo male, verso i 10-11 centesimi di accise nel decreto Salva Italia, però cioè, questi sono aumenti che si sono verificati nell'ultimo mese, non stiamo parlando degli ultimi 4 mesi. Comunque, Presidente De Vita, due domande: perché non vi confrontate con i Codacons, glielo chiedeva Rienzi, e perché avete deciso di aumentare i listini del petrolio, della benzina, del diesel? Allora, l'avvocato Rienzi deve dire le cose onestamente e seriamente, non deve dire le bugie.

Renzi, immagino che così non le vada bene, però... Ma guardate, l'Unione Petrolifera è un muro di gomma. Allora, lei come si permette di dire che io dico bugie? Beh, la gomma è un derivato del petrolio. Caro muro di gomma, derivato del petrolio, noi vi abbiamo invitato a un confronto tecnico. Voi avete detto, no, noi andiamo solo al Ministero con 14 associazioni. Le ripeto per l'ultima volta, volete confrontarvi con il cosa con, non con il ministero, sì o no? E la risposta è sempre no, perché avete paura della verità. Seconda cosa, ieri a New York il barile è calato dello 0,8% a $96.10. Mi spiegate com'è che ieri è calato il barile e oggi ci sono questi aumenti vertiginosi? Noi ci siamo stufati e continueremo ad andare avanti, non solo l'antitrust, ma vi stiamo preparando una denuncia che ve la ricorderete tutta la vita, perché stiamo facendo la messa a punto di tutti i dati che dimostrano che negli anni ogni volta che cala il barile voi ve ne fregate, e quando aumenta invece aumentate immediatamente e non ribassate quando il barile ribassa. Quindi è una speculazione pura e semplice, dovete smetterla di spremere gli italiani. Noi chiediamo al governo Monti che metta sotto controllo i vostri bilanci, come negli Stati Uniti, dove si costringe a reinvestire i profitti nel paese dove vengono prodotti, e vengono controllati i bilanci punto per punto per vedere dove sono questi super profitti e da dove provengono. Come fate a fare tutti questi super profitti se state sui costi? Ma me lo spiegate com'è possibile? E lasciate liberi i benzinai, noi siamo con i benzinai in questa battaglia di libertà, loro devono potersi approvvigionare dove vogliono. Invece avete fatto pressione, lobby sul governo Monti e avete fatto saltare anche l'unica possibilità che c'era. Siete proprio un po' troppo avidi, mi scusi, basta, finitela, devi fare questo. Allora, De Vita, Landi ha già chiarito. Vedo che alcuni scrivono che allo Auchan di Nerviano la Super è 1,655 euro. Sappiamo che fare la benzina nei grandi centri commerciali costa meno. Questo lo sappiamo tutti. L'ha detto. Allora, vabbè, adesso sul fatto perché non volete vedere i Kodakons, parlatevi tra di voi, non è che possiamo usare Radio 24 no, certo, per questo. Però esatto. Hanno preparato stanno preparando una denuncia che vi farà impallidire. Obiettivamente me la dà la formula un giorno per capire come faccio a calcolare il prezzo della benzina, visto che il petrolio non conta più nulla. Quando vuole ci facciamo un confronto serio, quando vuole io sono pronto, siamo tutti pronti. Però i profitti ci sono. Attenzione, leggiamo i bilanci. I profitti che fanno le grandi compagnie internazionali sono quelli che vengono dal fatto di bucare la Nigeria, il Kazakistan, il Congo, la Tunisia, cioè sono i profitti che si fanno laddove c'è attività mineraria. Andiamo a leggere il bilancio, i bilanci delle società che operano in Italia hanno perso nel 2010 circa 1 miliardo messi tutti insieme e nel 2011 credo che siano quasi altrettanto, quindi questi sono i bilanci. L'avvocato Renzi, rilegga bene i bilanci, visto che è tanto bravo. Allora, ce li controlliamo, tutti ce li vogliamo. Noi, i nostri bilanci sono controllati, spero che siano controllati anche i suoi. Allora, controllatevi i bilanci a vicenda. A me basterebbe capire una benedetta volta perché quando il prezzo del petrolio non si muove la benzina fa quello che vuole, ma quando il prezzo del petrolio scende la benzina tendenzialmente non scende in maniera così forte. Lo so, David, abbiamo parlato per anni. Detto ciò, ho scoperto anche che i petrolieri adesso sono pure in difficoltà e stringono la cinghia pure loro, e non avevo mica capito questo. Mi sembra di aver visto comunque bilanci interessanti. Ci faremo carico anche di questo. Intanto grazie al presidente di Petrolifera Italiana Pasquale De Vita, grazie al presidente Raffai Martino Landi e grazie al presidente di Kodakons Carlo Renzi. Allora, la borsa oggi va bene a Milano, meno bene, o meglio più piatta nel resto d'Europa. Da noi ci sono due notizie importanti, una riguarda A2A più 6,20%, ma bene devo dire anche Enel oggi più 5,40%, Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 5%, Ansaldo STS più 4,60%, poi alcune banche, nel caso specifico Intesa San Paolo più 3%, la Pop Milano più 2,30%, Unicredit più 2,20%. E poi c'è di nuovo il caso Fondiaria Sai, Unipol. Perché? Perché i titoli erano fortissimi, dunque adesso ho chiuso sulle risparmie Fondiaria Sai più 16,40%, e adesso vi do anche le risparmio le ordinarie e le Unipol. Intanto saluto come sempre Radio Colli, il Sole 24 Ore, per il collegamento. L'onore Micheli, buonasera. Buonasera. Partiamo da A2A e dalle dimissioni del presidente Giuliano Zuccoli, sono arrivate a metà pomeriggio. Sì, sono arrivate inaspettate per il mercato, sì. È stato detto che appunto il manager ha rassegnato le dimissioni da tutte le cariche e improvvisamente i titoli di A2A hanno iniziato a correre e hanno terminato, come hai detto tu, in progresso di oltre il 6%. Mm-hmm. Ed è un andamento che però contagia, diciamo così, anche Enel è andata molto bene. Ma Enel in verità andava bene sin da questa mattina. Sì, lì c'è anche i possibili rimborsi, no? Guarda, ci sono due motivazioni, sì, che hanno spinto l'Enel. La prima è che già ieri si sono diffuse indiscrezioni secondo le quali sta andando molto bene la domanda delle obbligazioni che la società sta emettendo. Ricordiamo che Enel vuole collocare circa 1,5 miliardi di bond e praticamente la domanda è già stata superiore a 1,5 miliardi. A questo punto potrebbe collocare anche una cifra, si parla di 3 miliardi. Comunque l'offerta sarà valida fino al 24 di febbraio, occorrerà vedere cosa accade. In più la controllata Endesa, la controllata spagnola, sempre secondo indiscrezioni circolate sul mercato di Madrid, starebbe accelerando il piano di rimborso di 7,5 miliardi di deficit tariffario da parte dello Stato. Questa operazione ovviamente andrebbe a beneficio non solo di Endesa ma anche dell'intero gruppo Enel, che vedrebbe migliorati i rating e quindi vedrebbe abbassato il costo del proprio debito. Allora, sulla benzina vedo intanto molte dichiarazioni di alcuni ascoltatori, alcuni segnalano addirittura che a Roma, in zona portuense, il diesel costa più della benzina. C'è una spiegazione sul record della benzina che trovo particolarmente divertente, perché dice la benzina costa di più perché aumenta il gasolio per le autobotti che la trasportano. È perfetto. È catch 22, dicono in inglese. E così il cerchio si chiude. Andiamo avanti sul resto del listino. Fondiaria SAI e Unipol, ma che sta succedendo? Saperlo, non lo sanno nemmeno i trader. Ma la Consob ha acceso i suoi potentissimi fari, vabbè che c'era neve. La Consob ha acceso i fari da giorni, ma di fatto nessuno sa spiegare questa performance, tantomeno i trader, visto che nei giorni scorsi almeno circolava la voce che AXA stesse rastrellando azioni, ma a questo punto tale ipotesi è ormai remota e quindi la performance è del tutto inspiegabile. Cioè, Unipol ha guadagnato il 7%, e Fondiaria sul risparmio ve l'ho già detta, adesso la sto cercando anche se c'è sotto mano, tu, eccola qua, il 10,60 sulle ordinarie e il 16,40 sul... Io non ho mai visto una situazione in cui c'è Unipol che deve comprarsi Fondiaria, che è piena di debiti, un miliardo di debiti, cresce sia l'acquirente che chi viene acquisito. I misteri della vita. Tu non ne sai di più, immagino. No, più che altro abbiamo sentito anche i trader e non sanno spiegare assolutamente questa performance. Evidentemente solo pochi fortunati sapranno la motivazione per cui i titoli continuano a galoppare. E allora Micheli, nel frattempo non è che abbiamo avuto nuove informazioni su Fondiaria SAI e Unipol, vero? Per adesso no. Fondiaria SAI, il numero uno, tra l'altro è figlio del ministro Cancellieri, no, lo dico perché anche lui starà a Milano, vicino, adesso la ministra sta a Roma, visto che dice che i giovani vogliono stare sempre vicini a mamma e papà. Ma abbiamo già commentato lo scivolone del ministro ampiamente. Torniamo sulla borsa, nessuna novità quindi su Fondiaria SAI e Unipol. Andiamo avanti con gli altri titoli. Beni bancari e di Intesa abbiamo già detto, e anche di Unicredit. Finmeccanica oggi in nuovo spolvero, più 2,33%, e anche Ansaldo, STS più 4,60%. Sì, esatto, perché il Sole 24 Ore questa mattina ha riferito l'indiscrezione secondo la quale il fondo strategico italiano starebbe valutando l'acquisto di quote di minoranza in aziende controllate da Finmeccanica, quindi in primis si pensa anche il alla gamberale, stessa... dici? Esatto, quindi sì. Si pensa in primis alla stessa Ansaldo STS, più 4,58%, ma ne beneficerebbe ovviamente anche Finmeccanica, più 2,33%. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane. Comunque la cessione di Ansaldo STS è da mesi ormai che se ne parla, insieme a quella di Ansaldo Breda. Allora, due notizie ancora in breve. Prysmian, bene, più 5% da Pirelli Cavi. E invece Gabetti, più 22%, c'è il piano strategico e la ricapitalizzazione. Prysmian e Gabetti. Sì, Prysmian ha beneficiato della concorrente francese Nexan, che a Parigi ha vantato un progresso del 9%, dopo che il vertice dell'azienda ha annunciato non solo conti 2011 con un fatturato in crescita del 12%, ma soprattutto ha indicato di prevedere conti ancora in crescita anche per l'esercizio in corso, e quindi questo è considerato di buon auspicio anche per Prysmian, che opera nello stesso settore, quello dei cavi. Per quanto riguarda invece Gabetti, è stata la migliore del listino, più 23,8% sul finale. A spingere in alto le quotazioni è stato il fatto che il consiglio di amministrazione, che si è concluso nella tarda serata di ieri, ha approvato il piano di rilancio dell'azienda, un'azienda in crisi fino al 2015, ha approvato inoltre un aumento di capitale da 32 milioni che sarà una vera e propria boccata d'ossigeno per la società che è attiva nel settore immobiliare. Grazie Nora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Migliori e peggiori li abbiamo praticamente già dati. Comunque il peggior titolo è Tiscali, meno 5,60%, il miglior titolo Gavetti, di cui parlavamo, poi Gas Plus più 22, e poi la vicenda misteriosissima di Fondiaria Sai. Cambiamo tema e torniamo su quello che è successo a Catania con una partita di calcio dei parlamentari, anche magistrati e politici locali, dei parlamentari italiani, che se fosse tutto confermato sarebbe veramente, non so, una secchiata di fango sul nostro Parlamento? Allora, ripercorriamo la vicenda. Invitata per un torneo di beneficenza a Catania, la nazionale di calcio dei nostri parlamentari si è concessa, ma tenendo bene a precisare che doveva essere totalmente spesata, che per una partita di calcio di beneficenza già non è il massimo. Alla fine gli onorevoli avrebbero accettato di farsi pagare solo il biglietto aereo, per il quale sono comunque rimborsati. Tutto il resto doveva essere stato rigorosamente gratis. Ci hanno pensato alcuni sponsor a coprire i costi dell'alloggio. Poi, quando sono andati al ristorante, i 15 parlamentari non hanno pagato il conto, ritenendo naturale che lo pagasse qualcun altro, fino a che il loro collega catanese, Giuseppe Berretta del PD, ha pagato per tutti. Ma il meglio sembra essere arrivato dopo, perché dopo il triangolare con la squadra di calcio dei politici locali e dei magistrati, a fine torneo un funzionario della Polizia Municipale di Catania ha fatto il giro degli spogliatoi per chiedere un contributo finalizzato all'acquisto di 3 carrozzine per bambini disabili assistiti dalle sorelle della carità. Costo 700 euro l'una. I politici locali hanno messo mano al portafoglio, lo stesso hanno fatto i magistrati, i parlamentari non avrebbero cacciato nemmeno un euro. La richiesta è stata fatta direttamente da alcuni parlamentari e a Remo De Bellis, che della Camera è anche commesso. Nessun euro raccolto. Per evitare una figura ancora più pesante, il solito Giuseppe Berretta ha messo 100 euro, che insomma sono poca cosa. E poi alcuni dei parlamentari si sarebbero trattenuti anche a Catania un giorno in più per evitare la neve di Roma e quindi insomma godersi i 16 gradi. Giustificazione: non è possibile sostenere ogni trasferta a nostre spese. Allora, tra i parlamentari della nazionale di calcio italiana c'è anche l'onorevole Maurizio Paniz del PDL, che è nostro ospite. Buonasera onorevole. Buonasera. Allora, io non le sto neanche a ricordare che insomma, se tutto fosse confermato, ne uscireste in maniera veramente veramente pessima, non ho altri aggettivi. Non occorre che lo ricordi, perché abbiamo già fatto una smentita e abbiamo chiesto la rettifica preannunciando la querela, perché le notizie sono false e l'abbiamo già ripetuto più di una volta oggi nel pomeriggio, da quando il Corriere.it è uscito con questa notizia. Detto questo, se vuole le posso aggiornare un momento sull'attività della Nazionale Parlamentare di Calcio, così si rende perfettamente conto di quello che la Nazionale Parlamentare di Calcio, che esiste da 30 anni fa. Mi dica prima una cosa, poi mi aggiorna anche sull'attività della Nazionale Parlamentare di Calcio. Però voi siete andati a Catania per questa partita, giusto? Una triangolare con i politici locali e i magistrati. È vero che al ristorante non avete pagato? No, falso. Vede, noi andiamo in ogni... di riferimento. Cioè, noi abbiamo un parlamentare che si prende carico dell'organizzazione degli eventi ai quali aderiamo, tutti eventi per beneficenza, e che dal 2001 ad oggi hanno dato oltre o quasi 3 milioni di euro per beneficenza a tantissime associazioni. Il nostro parlamentare di riferimento nell'organizzazione di questo evento è l'onorevole Beretta, il quale ha già fatto un comunicato molto chiaro nel dire testualmente che smentisce la ricostruzione della vicenda, seppure in parte a lui favorevole, perché non corrispondente a verità. Ha precisato che la decisione di pagare la cena per i colleghi al termine della partita era già stata da lui assunta diversi giorni prima e dettata unicamente dal senso di ospitalità. Ha precisato ancora che è un'abitudine consolidata, visto che il parlamentare cosiddetto di casa normalmente offre la disponibilità. Vabbè, allora, la cena ve l'ha pagata Beretta, ma quelli sono fatti anche vostri. A me interessa più, nel senso, era una curiosità per capire. Sembrava che non voleste pagarle, invece Beretta. No, le prestazioni vanno fatte su tutto. Su tutto, perfetto. Comunque, tanto era una partita di giro vostra, che la paghi Beretta, la pagate alla Romana. A me poco interessa, però vorrei capire: le tre carrozzine per i bambini disabili. Nessuno ha mai chiesto nulla. A me, sfido chiunque, l'ho già detto in maniera molto chiara al Corriere.it: sfido chiunque a portarmi davanti una persona che mi abbia chiesto di fare un versamento anche di un solo euro. Fermo restando che la nostra partecipazione. Un attimo che la stiamo perdendo. Allora, siamo riusciti a ripristinare il collegamento con l'onorevole Paniz. Le chiedevo, lei stava dicendo, nessuno vi ha chiesto un euro per le tre carrozzine per i bambini disabili. La premessa è diversa. Noi siamo andati, partendo da ogni parte d'Italia, per mantenere fede a un impegno, nonostante le giornate di venerdì e sabato, che non occorre che le ricordi quali condizioni meteo avevano. Siamo andati apposta per fare una partita di beneficenza, cioè per consentire la raccolta di fondi per l'iniziativa che nel posto era stata ritenuta opportuna. Nello spogliatoio nessuno ha chiesto niente. Io sfido chiunque a venire a dire che ha chiesto a me o a qualcuno delle persone che erano vicini a me di dare un euro, 1.050, quello che è, per un'iniziativa ad hoc. L'avremmo fatto molto volentieri se ci fosse stato chiesto, ma nessuno lo ha chiesto. E questa è una cosa che va chiarita in maniera... No, perché le spiego, addirittura il solito Berretta ha cercato di rimediare tirando fuori 100 euro, questo batteva... Batteva la notizia. Quindi a voi nessuno ha chiesto soldi, e voi... però siccome queste tre carrozzine... Scusi, voglio che sia chiaro un discorso, perché meglio puntualizzare bene quello che è stato fatto. Io sono partito il venerdì da Luna, non so se si rende conto dov'è rispetto a Catania. Ho fatto 1.000 chilometri per mantenere fede a un impegno assunto e consentire l'organizzazione dell'evento, rientrando poi il sabato sera con tutte le difficoltà di collegamento che c'erano. La nostra presenza di parlamentari ha consentito l'organizzazione dell'evento, è stata decisiva per la raccolta dei fondi, come sono state decisive le 140 altre iniziative che abbiamo fatto dal 2001 in poi, da quando sono parlamentare, che hanno consentito di dare in beneficenza circa 3 milioni di euro, okay. Cioè una cifra importante. Ma mi dica una cosa, adesso faremo, voi avete smentito, avete minacciato di querela il Corriere della Sera, .it, vabbè, perfetto, lei ce l'ha spiegato, però mi dica una cosa, andando poi al sodo, visto che questo programma si occupa di economia, se veramente ci sono queste tre carrozzine per bambini disabili da 700 euro l'una, ammettiamo che qualcosa non abbia funzionato e questi soldi non ve li hanno chiesti, però secondo lei sarebbe disponibile... Sono disponibilissimo, come sanno tutti, senza nessunissimo problema, e lo sono tutti i miei colleghi parlamentari, per il fatto stesso che sono partiti da Pordenone, da Belluno, da Torino, da Milano, da Roma per andare a Catania, vuol dire che la disponibilità la danno, perché sono partiti non certo per il viaggio, per il piacere del viaggio, posso... si torna qualche volta in giornata e qui nel giro di due giorni scarsi, quindi mi pare che la risposta alla disponibilità verso la beneficenza sia nei fatti e non per cui, nelle parole. Per cui se poi venisse fuori, adesso sentiremo magari domani anche Alessandro Milan, domani mattina se non occuperà sentiremo anche Catania, se venisse fuori che mancano ancora i soldi complessivi per queste tre carrozzine, voi, lei mi sta dicendo, saremmo disposti a metterle noi. Guardi, ne abbiamo messi talmente tanti in questi anni. Vabbè, dai, Paniz, lei... ne mettiamo volentieri altri 1.600 e se serve anche 3.600. No, anche perché lei, essendo molto bravo come avvocato, guadagna 1.800.000 euro l'anno. Il fatto che io guadagno 1.800.000 euro l'anno non c'entra niente. Nessuno a fare beneficenza. Discorsi come quelli che sono stati fatti in quell'articolo. Perché io la mia beneficenza la faccio tutti i giorni, la faccio molto volentieri, la faccio in silenzio, perché secondo me va fatta in silenzio. Se qualcuno avesse chiesto a noi un intervento, come l'abbiamo fatto noi non dico decine, ma centinaia di volte avremmo continuato a farlo senza dare comunicazione ai giornali di quello che facciamo, perché le operazioni di beneficenza, gli interventi di beneficenza si fanno in silenzio, non attraverso la reclama. Vabbè Panizza, a me basta sapere, intanto lo dico anche a chi scrive, attenzione, questo programma avrà tanti difetti, però abbiamo sempre fatto parlare tutti, abbiamo iniziato con i petrolieri sul prezzo della benzina, per cui è giusto verificare le cose senza avere preconcetti. Subito c'era una notizia devastante, se confermata, l'onorevole Panizza l'ha smentita, ha minacciato di querelare il Corriere, ha fatto fare una rettifica, adesso a tutti diamo lo spazio, il bello è anche questo, no? Qualche altra precisazione? No, a me basta sapere, a me basta sapere che io glielo do, ha capito? No, a me nessuna discussione, perché noi non abbiamo niente da nascondere. Beh, insomma, niente da considerare illecito o sconveniente. Anzi, pensiamo solo che nella zona dei parlamentari rappresenti un punto d'orgoglio per la nostra Italia, perché mette assieme componenti di tutti i partiti nel segno della solidarietà. No, lo ha sempre fatto in tutta Italia e anche fuori dell'Italia, ricevendo il plauso anche degli organizzatori di Catania, che hanno fatto un comunicato esplicito per ringraziarci della presenza, come lo ha fatto l'onorevole Beretta, basta che lei lo controlli, che è il parlamentare di riferimento in questa che vi organizza la cosa. Ma guardi, a noi interessa non fare l'antipolitica come prêt-à-porter, interessa capire che cosa no, e come vede l'abbiamo invitata e lei ha avuto la diffusione delle notizie, il racconto delle notizie prendendo a spunto un articolo uscito su Corriere.it e non prendendo a spunto la rettifica che era stata fatta immediatamente da parte sia della Nazionale parlamentari, ma è venuta riferimento onorevole Beretta, sia da parte degli organizzatori catanesi, era una versione parziale della verità. Onorevole Panizza, l'abbiamo invitato apposta, quindi ce l'ha raccontato in diretta, meglio di così che vuole. Comunque, soprattutto, importante che quello che ci ha detto, che se poi fosse dimostrato che mancano dei soldi, che non hanno raccolto tutti i soldi per le tre carrozzine, siete disponibili a metterci voi la differenza. Non solo siamo disponibili, ma abbiamo dimostrato con i fatti. In decine, centinaia di volte quello che abbiamo fatto a favore degli altri. Lo facciamo molto molto volentieri, per cui ci dia un'immagine positiva e costruttiva dell'attività che i parlamentari fanno in silenzio quando fanno beneficenza, ma tutti i giorni. Va bene Panizza, a noi interessa ristabilire un minimo di verità e ascoltare tutte le fonti. Se voi avete smentito, Corriere smentirà, chiederà scusa, sbagliano anche i giornalisti, mica sbagliano solo i politici, ci mancherebbe. E poi è importante anche la sua promessa, per cui i tre disabili di Catania sappiano che le tre carrozzine comunque da 700 euro l'una arriveranno. Grazie all'onorevole del PDL Maurizio Panizza. Certo che partire con De Vita sulla benzina e chiudere con i parlamentari che sono solo benefattori, oggi la puntata è quanto mai ostica e chiudiamo in bellezza con la Grecia, spero in bellezza, perché ho visto una dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker che ha detto insomma domani si convoca l'Eurogruppo sulla vicenda greca. Vittorio Darold, risollevami. La puntata purtroppo non ti posso risollevare, perché Juncker sta facendo secondo me una prova di ottimismo o sa qualcosa che ancora non è trapelato, cosa che tutti ci auspichiamo, ma nel frattempo ancora non è uscito il premier Luca Papademos con in mano le 18 cartellette di dattilo scritte del nuovo piano di austerity che dovrebbe prevedere appunto il taglio dei salari minimi, il taglio delle pensioni complementari e appunto questi altri tagli di 15.000 dipendenti pubblici. Questo non è ancora avvenuto, l'euro infatti ne risente leggermente, c'è un grado di incertezza, anche la borsa a New York direi che è ancora una situazione ancora molto molto... Allora, saluto anche, e lo rivorrei anche nei prossimi giorni, quando l'accordo, come tutti ci auguriamo, arriverà, Dimitri Deliolanes, che è un giornalista da 30 anni greco, da 30 anni in Italia, come corrispondente della Radio Televisione Pubblica Greca. Buonasera, Dimitri. Buonasera. Mi dica una cosa, poi magari con lei torniamo anche domani, però... com'è possibile che l'opinione pubblica greca stia premiando di più il partito conservatore, che è quello che li ha portati alla bancarotta truccando i conti e penalizzando il PASOK, cioè i socialisti che comunque, pur con mille difficoltà e con mille pressioni da fuori, stanno cercando di trovare una soluzione al buco greco? No, beh, la verità, stanno premiando il primo partito in Grecia è l'astensione, il voto bianco, il voto nullo, eccetera, cioè c'è un grande disaffezione verso la politica. E infatti anche questa ipotesi di elezione che in Italia alcuni hanno dato per imminenti è una proposta che sostiene soltanto il probabile vincitore, cioè il partito conservatore, il quale probabilmente non avrà neanche i numeri per poter governare da solo, quindi sarà costretto a fare un governo di coalizione, non si sa con chi, per cui è la disaffezione verso tutti e due i maggiori partiti che hanno governato negli ultimi 10 sì, anni. Anche se i conti li ha truccati uno dei due, questo va detto. Sì, cioè, li ha truccati perché... i socialisti e poi i conservatori non hanno preso nessuna misura correttiva per aggiustare le cose. Un trucco bipartisan. Senti una cosa, Dimitri, ma... quanto può reggere? Perché abbiamo visto richieste che alcuni iniziano a definire anche eccessive. Non solo il taglio del salario minimo, la tredicesima anche nel settore privato. Allora, quanto può reggere la Grecia di fronte a queste richieste? Perché sappiamo che c'è una sacca di nero enorme, anche superiore a quella italiana, e quindi di evasione fiscale. E c'erano dei privilegi assurdi, anche più di quelli italiani, sulla pubblica amministrazione. Ma... il paradosso è che queste nuove misure sulle quali si sta trattando in questi giorni ad Atene non riguardano appunto i settori dove effettivamente c'è bisogno di risanare e dove l'opinione pubblica greca sperava che l'Europa mettesse il coltello a fondo nella piaga. No, si sta applicando una ricetta di impoverimento e di recessione dell'economia greca che in 2 anni ha portato a un peggioramento della situazione dell'economia. E per questo che ci sono le trattative sono così dure, perché si tenta di far ragionare questi signori della Troica, di fargli capire che la recessione, come giustamente Monti ha detto appena preso l'incarico, non è la soluzione al contrario è lo sviluppo. Se loro hanno una ricetta di sviluppo sano, combattendo l'evasione fiscale, combattendo il lavoro nero, riducendo il peso del settore pubblico nell'economia greca, che effettivamente era eccessivo, allora abbiamo qualche speranza di reggere. Allora io direi con Vittorio D'Arold e con te, Dimitri, ci sentiamo domani nella speranza di avere l'accordo sulla Grecia. Dico solo una cosa: ogni anno in Grecia si sprecano, lo dice il vostro ministro della sanità Andreas Loverdos, 1 miliardo di euro in farmaci scaduti, il doppio di quello che si spreca in altri paesi, e si effettuano 3 milioni e mezzo di tacchi, il doppio di quelli che si effettuano in un altro paese dell'Unione Europea. Per cui lì sugli sprechi ancora non ci siamo. Ai tedeschi costerà, secondo l'ultimo studio, 26 miliardi di euro rinegoziare il debito greco. Ringrazio Vittorio D'Arold e chiaramente il collega Dimitri De Iolanes. Una battuta a chi scrive che Paniz, ma non è vero, insomma, Paniz può avere mentito su Rubi, figlia di Mubarak, e avere ragione questa volta. Non è che se uno mente una volta poi mente sempre. Comunque, noi ci risentiamo domani alle 17 in poi. Un augurio di buona serata intanto da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.